Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo e arrivò terzo. Quella è una storia assurda. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, a tenuto distinto, dai trafficanti e so di contatti. A questo punto facciamo prima mettere un traghetto Tripoli-Palermo-Trapani piuttosto che fare questo. Allora, questi signori, secondo qualcuno, sono quelli che ci dovrebbero pagare le pensioni. Per il momento ci fottono i telefonini e si fanno dei gran cannoni. Dal mio punto di vista queste ONG hanno disturbato l'azione del governo e l'azione dell'Europa. A questo punto facciamo prima mettere un traghetto Tripoli-Palermo-Trapani piuttosto che fare questo. Allora, se ce li stiamo andando a prendere sulle coste, quelli non li stiamo salvando, quelli li stiamo traghettando con un taxi del Mediterraneo. Eh sì, signori, quando poi parte l'impazzimento generale, ora la moda è prendersela con le ONG, tutte, così, le ONG, che ne so, Medici Senza Frontiere, che hanno vinto, io ricordo ancora, il Nobel per la pace qualche anno fa, perché salvano vite umane in tutto il mondo, per dire, no? Mi viene in mente Medici Senza Frontiere, ma ce ne sono altre di ONG. Ma adesso, sull'onda di una inchiesta a Catania portata avanti dal procuratore Zuccaro, uno che tra l'altro dice, in una formula che si capisce un po' a metà, o meglio è spiegata oggi dai giornali, non ho le prove giudiziarie, nel senso prove che possano valere in tribunale, ma ho la certezza di contatti tra alcuni esponenti dell'ONG e persone in Libia. E oggi il Fatto Quotidiano racconta tutto con Stefano Feltri, si parla di telefonate degli 007. Chi è sta roba? Ma chi è sta roba? Chi è sta roba qua? Tra gli 007 e appunto alcune telefonate intercettate o anche comunicazioni radio tra trafficanti e esponenti delle ONG, ragazzi, cioè, questo è alcuni esponenti di alcune ONG, tipo una telefonata radio intercettata, una intercettazione radio intercettata, sì, insomma quella roba lì, una comunicazione radio intercettata. Venite, mandateli pure, noi siamo qui che li aspettiamo. E però c'è l'impazzimento generale, non so, tipo dire mandiamoli in taxi. Ma come si fa a dire in taxi? Di Maio, con affetto, come si fa a parlare di taxi del mare? Cioè, c'è, lì è gente disperata che prende il mare e forse muore. Spesso muore, purtroppo. Cioè, come si fa a dire il taxi? Il taxi, io chiamo, com'è il taxi? Dammi 40-40, mia famiglia, 35-70 chiamo, no? Ma dai, su. Cioè, il peso delle parole, proprio i politici non capiscono il peso delle parole. Basta che vanno lì, devono fare un proclama, un applausone e via, sono contenti. E che cavolo, ragazzi. Dai, sono le 6:34 minuti e ci sono 3 gradi a Varese, pioggia battente, come ci dice un ascoltatore, anche gelo. Mentre è a Telve, 6 gradi, un abbraccio a Giorgia. Ad Alessandria 7 gradi e piove. Ragazzi, anche a Milano temporale oggi con tuoni e fulmini. A Pordenone 14 gradi, evviva, bravi, fortunati a Pordenone. È venerdì, a Correggio, anche a Milano, 11,9 gradi, facciamo 12, va, rotondiamo, Luciano. Rino da Salerno, nuvoloso, piovigina, ma ben 17 gradi. Wow. Da Asso Canzo, Carletto ci dice 7 gradi. Grazie, ovviamente. E poi a Stabio Mendrisio 3 gradi e grandine, signori. Mentre Matteo ci fa sapere che ci sono 12 gradi in Ohio, da dove ci ascolta come sempre, Columbus, Ohio, in diretta. Un abbraccio a tutti gli Stati Uniti, anche a Donald Trump. Ravvediti. Aria di bufera a San Pellegrino Terme, 10 gradi. Buongiorno a tutti, sono Nicky Vendola. Anch'io la mattina, mentre do la pappa a Tobia, spesso ascolto Alessandro Milan. E ciccoso proprio. Signori, signori, è così. Voglio salutare il senatore Stefano Esposito. Senatore, buongiorno, buongiorno. Ha visto che abbiamo degli ospiti illustri anche che ci ascoltano. No, io devo fare un grande ringraziamento, un grande abbraccio a Marti Colucci di RDS che ci ha fatto questi regali, lui con le sue imitazioni. Allora, signore, insieme al senatore Esposito voglio salutare Vincino. Come stai, Vincino? Oggi, eccoci. Oggi vuoi abbandonarci prima del previsto perché magari sei arrivato da qualche parte, non lo so. L'altra volta... No, sono... Oggi stai con noi. Stai con oggi noi. Sto con voi, sì. Stai con noi. Ragazzi, signori, c'è una cosa bellissima. Ci sono tante notizie di cui parlare, ma apriamo il Parlamento perché ce n'è una che vi voglio dare. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così... Che sicuramente voi non sapete, ed è questa. È stato scritto un atlante delle emozioni umane. Un atlante delle... Che c'è? Senatore, sei già svegliata Virginia? È arrivata Virginia, no. Mannaggia. Io speravo, diciamo, di fare la trasmissione. No. È arrivata. E adesso è arrivata. Ma io posso fare tutto, fare più cose insieme. Ma sì, è multitasking, no? Tranne il senatore, perché è venerdì, tranne il senatore. In questo momento può fare il papà, il cuoco della colazione, il senatore no. Vabbè, peraltro. Allora, questa non la sapete, è nato un atlante delle emozioni. Ci sono 156 emozioni catalogate, per esempio, vabbè, la noia, la tristezza, la gioia, però per esempio Vincino c'è la pronoia, sai cos'è la pronoia? Ce l'ho sempre io la pronoia. Non sai neanche che cos'è. Poche volte esco dalla pronoia. Io vivo in una pronoia. Ma non è vero, è quella sensazione quando vi sembra che tutti vogliano farvi del bene. La pronoia. Allora non era questa. Non era questa. Era un'altra. Forse tu hai la basoressia. Basoressia. L'impulso improvviso a baciare qualcuno. Quello di Cuffaro. Cuffaro aveva la basoressia, per esempio. Vasa, ti ricordi? Cuffaro. No, non te lo ricordi. Cuffaro. Te lo ricordi, Vincino? Cuffaro. Cuffaro, Totò Cuffaro, niente. Vincino? Basta, è svenuto. Un ottimo politico, no? Ah, ecco, no, ci sei. Sono, no? Allora, basoressia, la voglia, Stefano Esposito, senatore Esposito, la basoressia è un qualcosa che le capita, ti capita? No, direi di no. sarei pericoloso. Sì, effettivamente. È un pericolo effettivamente pubblico. Sì. Effettivamente sì. Va bene, allora signori, dai, partiamo da questa cosa dei migranti, perché senatore Esposito è preoccupato, ma questo PM Zuccaro, che adesso vede tutto il governo contro, parli con le prove, però se dice di avere degli elementi, non sarà mica che si è ammattito, no? Si vede che avrà qualcosa in mano. Che dici? Mira, però diciamo, il magistrato per mestiere opera, indaga e poi fa dei processi. Sì. Io e te possiamo dire, abbiamo la certezza che... Ma lui ce l'ha, ma perché dicono i giornali che ha delle intercettazioni fatte dagli 007. Ho capito, però per accusare... Allora, il terreno, tutti i terreni sono delicati, anche una querela di vicinato. Però su un tema come questo, io l'avevo già letta questa cosa sulla stampa una settimana fa. Sì. Lui avrà le intercettazioni, avrà le sue opinioni, ma in qualità di magistrato, prima di scatenare una bufera, che poi, siccome il giudice, questo PM è una persona seria, ma lui deve sapere che in Italia ci sono un sacco di ragazzini, modello Di Maio, no? Che poi vanno e cominciano una crociata contro le ONG, poi se la prendono pure con il Papa. Cioè, il tema è talmente delicato. Ma come il Papa Di Maio? Adesso si avvicinano ai cattolici, parlano ad avvenire il Papa. No, infatti il Papa si è... Sì, è irritato, no? Anche è un po' arrabbiato su questa cosa, però quello che voglio dire, Milan, è purtroppo non puoi buttare, come dire, in pasto a questa discussione le tue opinioni. Il magistrato non può avere un'opinione di fronte a oggi lo dice ancora Repubblica, lo spiega, ha detto, fa un'intervista a Repubblica ancora, giusto? E dice spero di chiarire definitivamente, non ho prove giudiziarie quando parlo, ma ho certezze, parlo di certezze. Cioè, da quando sono cambiate le leggi nel nostro paese? Cioè, e quindi un magistrato domani mattina può fare un'intervista e dire non ho nessuna prova giudiziaria che Esposito sia un mascalzone, ma ho la certezza che lo sia. Ma ti sembrerebbe una cosa normale? No, la spiegazione è proprio questa. Pare che siano state acquisite con metodi di intelligence straniera che però non valgono secondo la procedura penale italiana e quindi non possono essere prodotte in tribunale, però sono, come dire, telefonate che uno ha lì. E quindi anche da qui l'imbarazzo di Zuccaro, che dice lo so, guardate, è qui, ma non le posso produrre in tribunale. Portiamole a Bruxelles, se c'è Frontex, cioè, troviamo un modo, però non so come dire, siccome io sono interessato al fatto che se ci sono dei soggetti che lucrano, già ci sono questi banditi maledetti, degli scafisti, ma c'è anche soggetti travestite da ONG, perché non sono ONG in quel caso, abbiate pazienza, no? Perché ho troppo rispetto per le ONG per trattarle tutte allo stesso modo, stanno facendo operazioni di questo tipo, io sono il primo ad essere interessato a cacciarle, però no, ho la sensazione che non sia questo il modo giusto. Non lo so. Non è questo. No, cioè, voglio dare in pasto politicamente, però Vincino mi preoccupi tanto. Di Maio, la questione dei taxi, no? L'ho già detto io che ha sbagliato. Dai, però adesso avanti tu, avanti. Avanti. Due che i magistrati parlano prima di avere le prove, cacciano i cinghialoni, inseguono la politica, fanno quello che vogliono dal 90. Va bene? Per cui questo fa soltanto quello che hanno sempre fatto e fanno i magistrati in questi ultimi 40 anni, 30 anni. Ma lui dice di avere. Ma questo ce li ha sicuramente. Nell'epoca delle comunicazioni, oggi sicuramente questi contatti, queste cose ci sono. Ma difatti su questa cosa, secondo me, mi fa male dirlo, no? Proprio soffro a dirlo. Soffro. Ho una serie, soffro moltissimo. Ha ragione, ridillo bene. Quello stronzo di Di Maio. Però sul traghetto che lui sbaglia anche là, perché il traghetto o è Tripoli-Palermo, Tunisi-Palermo, o è Tunisi-Trapani, ma non è che Tunisi-Palermo-Trapani, cioè non è che ritorna indietro, come dire, perché è scemo quello, fermati adesso, fermati. Però sul traghetto ha ragione, dobbiamo mettere un traghetto. Ma dai, modo, i corridoi umanitari, quelli che in realtà un traghetto. Chiamalo come voi. Ma dai, ma un traghetto, ma dai, ma non, sì. Dai, non voglio crederci che mettere sotto alla base del pontile là in Libia dove attacca il traghetto il come dire servizi che vedono tu sì tu no, tu sì tu no, passaggio gratis per 1000 persone al giorno e Esposito vincine così fa satira, fa satira. Non sarebbe il grandissimo che è qui ascoltare rispettosamente, appunto. Sì, ascoltare rispettosamente. Vabbè, ragazzi, non lo so. Questo è comunque Zuccaro. Sentiamo anche ieri ad Agorà. Qua oggi su Repubblica, dopo la leggerina rassegna stampa, dice: ho certezze. Ieri invece ha detto questo. Se abbiamo delle rilevazioni satellitari effettuate da forze di polizia che non hanno funzioni di polizia giudiziaria, noi abbiamo delle conoscenze e quindi delle certezze. Ma non abbiamo delle prove. Chiaro. Abbiamo bisogno che queste prove ci vengano fornite dalle forze di polizia giudiziaria. Qui è chiara la questione, Esposito. Cioè vuol dire care forze di polizia italiane. Io le ho dall'estero queste prove e quindi non le posso produrre in un tribunale italiano. No? Sta dicendo questo. Però Milan... Il PM di Catania, anzi il procuratore di Catania, sì, dispone di tutte le forze dell'ordine. Lui dice di no, per esempio, non ho mezzi, non ho risorse, non ho... questo comincia a diventare un po' singolare questa cosa. È una storia un po' singolare. Lo dico sì, un po' che, singolare. Che c'è, Vincino? Ma perché, scusa, dobbiamo negarci alla verità, no? È così, cioè il problema è questo, lui non può fare intercettazioni su una nave estera, perché deve chiedere quale rogatore, però lui lo sa che questo avviene, no? Ma qual è lo stupore di questa cosa? Ma è chiaro che se io mando... Lo stupore è che c'è la polemica. Prima gli davano il numero di telefono della guardia, ora gli danno il numero di telefono del MOS o di un altro NG, no? Ma dov'è? Qual è lo scandalo? Non c'è. Ma lo scandalo, cioè, nel senso che per te è normale che i trafficanti, sì, alcuni, certo, parlino con alcune ONG? Assolutamente sì. Ma come dai? Non... Perché, assolutamente. Ma quella è gente che butta per mare in cambio di soldi? Prima buttava per mare senza fregandosi, oggi sono più coscienti. Stiamo buttando per mare, le andate a prendere. Sono migliorati. Ma vuol dire avere a che fare con dei criminali. Oh, ma scusami, non ho capito. Questi, allora, ognuno di questi trasportati pagherà 500.000 euro, no? Sì. 100.000 persone in una barca, lo sai quanti soldi sono? Oh, sono tanti. Certo. E allora, scusa, la cortesia di fare sta telefonata al MOS, alla nave, anticipare a prendere. Ho capito. E io ti seguo anche. Andiamo al traffico. Sono migliorati, sono coscienti. Andiamo al traffico. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Passa una settimana che stanno rompendo le scatole in TV sulle discussioni dell'Alitalia e si discute dei sindacati e si discute dei dipendenti e si discute dei tagli. Oh, ma nessuno discute su chi ha mandato in rovina l'Alitalia? E i dirigenti? Fate una bella discussione sui dirigenti coglioni! In Messico c'era la maledizione di Montezuma, noi in Italia abbiamo la maledizione di Montezemolo. Ma domani non si dà accorto che l'Italia è un paese mariuole, truffaldino e ladro, e chi ne ha più ne metta? È mai possibile a tutti i livelli allungano la mano e pigliano e portano a casa. Politico che viene qui magari condannato, nel sottopancia, sì, qui sotto, fosse scritto non solo il nome e cognome e il partito d'appartenenza, ma pure la condanna che lo riguarda. Sì, noi. Questa è la proposta di Di Battista, Movimento 5 Stelle. Per esempio, senatore Esposito, lei va in TV, tu vai in TV, e che succede? Ti devono scrivere qualcosa sotto pancia? Diciamolo subito chiaramente. Io sto cercando di buttarla giù la pancia. No, vabbè, ho capito, ma c'è qualche condanna, qualche cosina da... Questa è la proposta di Di Battista. Sì, però guarda, io penso che Di Battista non è mica tutto a posto. Cioè non si rendono conto a proposito del valore delle parole, no? Di questa, nonostante hanno infilato una serie di stupidaggini, hanno dato addosso a gente che poi non aveva nulla a che fare con niente. Hanno una cultura da Robespierre che non mi piace, Milan. Cioè, io questa cultura da Robespierre, peraltro di borgata. Sì. Però è bello, per esempio, di Vincino dovremmo scrivere: Vincino in onda, un sottopancia di 4 righe. Enorme, cioè due volte in carcere. Arrestato quante volte? Arrestato due volte. Anche da militare fu arrestato. Cioè arrestato. No, perché, carcere era da militare. Carcere militare. Carcere a Gela, finisce la trasmissione praticamente per i sottopancia di Vincino. Vincino, non andare più in TV. No, vabbè, ma anche loro, come dire, anche se anche Grillo in televisione, pure lui, deve mettere un bel sottopancia di lui. Infatti Vincino non c'è, lui fa che non andarci, se non... Grillo, ma anche Di Battista dice queste stupidaggini da solo col giornalista della trasmissione, da solo non ha il coraggio di dirle attorniato da 4 giornalisti o da 5 politici. Uno dei pochissimi politici ad essere andato da una trasmissione per questa ragione, Di Battista bisogna sempre dire questo: è quel vigliacco che ha... Ma sì, è come dire, no, perché poi questo funziona con Grillo, rifatta i giornalisti, li insulta, li fanno, e poi quando Di Battista chiede di essere da solo, quelli hanno paura, dice prego da solo come la vuole fatta l'intervista, prego, barba, capelli, dica. anche barba e capelli, io li conosco, sono tutti anche barba e capelli, certo. Li fanno in trasmissione, però insomma, bene. Sarebbe male barba e capelli, c'era una trasmissione adesso storica in cui dal parrucchiere c'ha barba e capelli, intanto c'è l'intervista, non ricordo quale. Quello avviene con i 5 Stelle sempre. Barba e capelli. Allora, caro Esposito, Virginia sta facendo danni? No, abbiamo anche già fatto colazione. In 7 minuti. Cosa assolutamente sì. Lei mangia i morbidi amici. I morbidi amici. Bucciati nel caffè latte. Giusto? E io ho fatto, mentre ero con voi, ho fatto caffè latte. Morbido amico pucciato e mangiato. È mangiato. Stupendo. È stupendo. Sono efficiente, potrei trovare un mestiere, diciamo, alla fine della legge. Sì. Tipo il senatore potrebbe essere. Ma no, appunto, magari potrei mettere su un'app. Che dici? Potrebbe essere, ma sì, ma votate così, tic. Tanto allora la legge elettorale non la fate. Anche Virginia, sento che sottofondo dice no, la legge elettorale. Ho nominato la legge elettorale, si è incazzata. Ha detto qualcosa. Mentre nominavi la legge elettorale, su Cartonito è iniziato Gatto Silvestro, quindi direi che abbiamo completato il quadro della completato legge il quadro. Allora, caro Vincino, sì. E caro Esposito, abbiamo un quasi segretario del Partito Democratico, siamo d'accordo su questo? Renzi torna? No. Dibattito mancava Renzi l'altra volta, assolutamente. Ma sì, era uno pieno di risentimenti. Ah, il 4 dicembre, vedete, ci avete buttato là. Oh, ma tu ci dici le cose per domani, no, ci devi raccontare. Sì, c'ha un po' il suo caratterino. Ma quindi non avrà il mio voto. Non avrà il tuo voto. Vabbè, tu vai a votare alle primarie? No. Ho capito. Vincino, non far mancare il tuo contributo. No, guarda che è un voto. Ti rivolgo un appello. Quindi voglio la patrimoniale, per favore. Non è un voto per il tuo Renzi, Esposito. Quindi lascia. Milan, l'importante è andare a votare. L'importante è andare a votare. Perché effettivamente, pensaci, hai ancora 48 ore. Effettivamente, Vincino, tanto si sa che vince Renzi, ma conteranno solo il numero di voti, perché diranno tutti è un fallimento, perché sono andati, che ne so, 1.3 milioni invece che i 2 milioni dell'altra volta. E quindi vedi che Esposito sa già dove andranno a parare i giornali, e quindi dice tutti al voto, vai a votare, Vincino. No, ma è una grande prova, è una grande occasione di democrazia. Sai, per andare a votare in questo paese non mi convincono. Non ti convince nessuno, vabbè. Nessuno. Non ti convince nessuno. Allora, uno è un magistrato, quindi tu capisci che è lui vincino proprio. Vabbè, magistrato così, chiamiamo quello uno. Del Pitruzzella, là, del teatro di Bari, dai. Entra, esce, fa. Uno è il ministro della giustizia, quindi ha a che fare con i magistrati, e uno è Renzi, capisci che... Gente, è disperato, che ancora c'ha il 4 dicembre in testa. In testa, sì, sì. Cioè, ancora non ha capito nulla di quello che è successo. Ma pensasse per esempio che il 5 dicembre è il mio compleanno, la vedesse così, da un'altra prospettiva, dice il 5 dicembre mi sono svegliato ed era il compleanno di Alessandro Milan. No, e quindi va bene. Deve segnare quattro cose precise che farà dopo. Vabbè. Non sa manco questo. In tutto questo però canta, signori, canta, e quindi voi tirate fuori le palette da 0 a 10. Il nostro amico di Radio Rock lo ha ancora una volta intercettato. Renzi, cosa canta? Sentiamo un po'. Lasciami gridare, ma che... lasciami sfogare. Renzi, Io senza amore non so stare. Troppo alta. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte. Non sono capace di stare a guardare quegli occhi di brace e poi non provare. Vai, vai, il brivido dentro. Dai, qua ti vogliamo, forza. Gridarti ti amo. Ricominciamo. So dove passi la notte. Ma mi piace di Renzi questa cosa, che se la prende anche. È troppo alta, cioè vuole correggere tutto. È troppo alta. Che cazzo mai fatto? Abbassa la canzone. Ragazzi, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ok, presidente, vai, attenzione, domanda un finale. Atto da, sì, volevo sapere. Ricominciamo per il PD, okay. Per il PD, ricominciamo per il PD. Esposito, voto da 0 a 10. 4. Ah, questa non gliela perdona, Questa Vincino non gliela perdona. Sopravviveremo. Renzi, 4. Vincino, che dici tu? Meno 2. No, tu facevi il professore, eri un disastro, perché solo ad antipatie. No, giusto e severo, no, assolutamente. Tu solo a simpatie. Tu la satira è severa, non è che la satira è guardare le cose e basta. Allora, c'è una domanda tecnica che ci fa Gigi, il senatore Esposito può rispondere. Bisogna dare l'eurino di offerta per votare alle primarie? Sì, 2 euro per chi non è iscritto. 2 euro. Vabbè, 2 euro. Vabbè, no, certo, è una informazione di servizio. Lui ha chiesto 1 euro, invece 2 euro. 2 euro per pagare. Va bene, Virginia, è tutto a posto? Il sindaco di Roma, a casa Esposito? Sì, sta bene. Adesso, dopo la colazione, guarda il suo gatto Silvestro. Vuole dirci qualcosa in chiusura oppure la lasciamo a gatto Silvestro? Diamo il buongiorno al mio amico Milan. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Virginia, buongiorno. Buona giornata. Goditi gatto Silvestro. Ciao. Ciao, ciao, ciao anche a te. E va bene, dai, insieme a Virginia Esposito, il senatore Stefano Esposito del Partito Democratico e Vincino, vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima. 1, 2, 3 anche che le venere. È arrivato Milanalino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, tra poco, come sempre, qui a Radio 24, la radio più bella del mondo. Questo l'ho detto per Peter Pescapè, me l'ha suggerito, così avrà un aumento del 25% sullo stipendio. Allora, siamo qui, è venerdì, forza ragazzi, è il momento di leggere i giornali nello spazio dedicato alla rassegna stampa. Andiamo! È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Con i titoli in questo venerdì 28 di aprile, il Sole 24 Ore apre sul presidente della BCE Draghi, il quantitative easing va avanti, inflazione ancora bassa, questo è il titolo di prima pagina. Poi la notizia da cui vorrò partire anche gli approfondimenti degli articoli è la vicenda dello scontro vero e proprio tra il governo e il procuratore di Catania sui migranti. Il titolo del Corriere della Sera è proprio questo: migranti, scontro governo PM. Per il Messaggero, migranti, scontro su ONG e fondi. Il Giornale, l'invasione organizzata, si svegliano anche i PM. Libero, scafisti e soccorritori, soci in affari. Per il quotidiano La Verità, gli scafisti pagano le ONG per destabilizzare l'Italia, è la frase del procuratore di Catania Zuccaro. E poi ancora il Fatto Quotidiano, ONG, i ministri attaccano i PM, ma gli 007 hanno le telefonate. La Stampa, migranti, il caso ONG divide il governo. Il Manifesto invece accusa in qualche modo la procura dicendo procurato allarme. Questo è il titolo di prima pagina. Come vedete, i titoli sono tutti su questo. Anche Avvenire, che difende da sempre il ruolo importante delle ONG, teorema sull'acqua. Il procuratore di Catania insiste, alcune ONG forse finanziate dai trafficanti, ma il ministro di giustizia Orlando parlino gli atti. Repubblica invece apre su Così regnava mafia capitale, 5 secoli di carcere sono le richieste della procura nel processo a Roma. Ma appunto le ONG, le accuse del procuratore di Catania Zuccaro, che ha fatto una serie di interviste, ieri era ad Agorà, oggi rilascia ancora un'intervista a Repubblica che tra poco leggerò. ONG pagate da scafisti. È bufera dopo le sue dichiarazioni. Il ministro dell'interno Minniti dice basta generalizzare, i giudizi sono affrettati. Il ministro alla giustizia Orlando replica parli con gli atti e con le indagini. Tutto sembra spiegato, lo fa bene Stefano Feltri a pagina 2 del Fatto Quotidiano, lo fa bene Repubblica con Alessandra Ziniti a pagina 6, da una questione tecnica. Allora, mettiamola così, leggo da Repubblica, c'è un'intercettazione di una conversazione via radio dalla Libia, in arabo, qualcuno chiama e dice il tempo è brutto, possiamo mandarli lo stesso? E da una nave umanitaria qualcun altro risponde mandateli, siamo qui. La fonte che ha consegnato nelle mani del procuratore Carmelo Zuccaro questa conversazione, che testimonierebbe l'esistenza di contatti diretti tra trafficanti ONG, non è di polizia giudiziaria e dunque non è spendibile come prova in un dibattimento. Per questo, con accuse che hanno scatenato la durissima reazione delle ONG, ma anche lo stupore e le posizioni prese di posizione del governo, il procuratore di Catania ieri ad Agorà si è spinto a ipotizzare che alcune ONG possano essere finanziate direttamente dai trafficanti e addirittura che alcune possano volere destabilizzare il sistema economico dell'Italia. Se saltiamo sul Fatto Quotidiano a pagina 2, Stefano Feltri è ancora più esplicito. Secondo quanto risulta al Fatto, l'intelligence italiana ha intercettato comunicazioni tra i trafficanti e le barche di salvataggio delle organizzazioni non governative e Zuccaro, PM, procuratore a Catania, ha parlato infatti di materiali non utilizzabili processualmente, come quelli raccolti dai servizi. E ieri ne ha rivelato un colloquio radio captato tra persone a terra in Libia e altre su una nave che rispondono «potete mandarli, noi siamo qui». Anche alcuni migranti all'agenzia dell'Unione Europea Frontex, secondo quanto dichiara il direttore Fabrice Legeri, in Senato dice i trafficanti danno ai migranti telefoni coi numeri delle ONG. Ecco allora che il procuratore Zuccaro, intervistato da Alessandra Ziniti su Repubblica, pagina 6, insiste e dice è giusto che un magistrato parli con gli atti giudiziari, naturalmente lo farò quando e se sarò in grado di formulare imputazioni nei confronti dei singoli, ma spero di chiarire una volta per tutte quello che è la mia posizione. Quando parlo di prove intendo prove giudiziarie da poter portare in un dibattimento, queste prove non le ho. ma ho la certezza che mi viene da fonti di conoscenza reale, ma non utilizzabili processualmente, che alcune delle navi operano all'interno delle acque territoriali, che vi siano state conversazioni in lingua araba tra soggetti che stanno sulla terraferma in Libia ed esponenti delle ONG che dichiarano di essere pronti a recuperare i migranti, che le navi spengono i transponder perché non venga individuata la loro posizione e che prendano a bordo migliaia di persone ben prima che si verifichi una situazione di pericolo e dunque fuori dalle norme di legge. Dunque il procuratore ribadisce per filo e per segno, pur non avendo, come dire, è chiara la questione, spiegata dai giornali, non lo può dire lui, sono fonti di intelligence che gli dicono questo, lui non le può produrre in tribunale, ma gli fanno maturare la convinzione per cui ha detto quello che ha detto. Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 3, racconta che gli sbarchi sono in aumento quest'anno per ora del 51% rispetto all'anno precedente. Il peso crescente dei salvataggi privati certamente c'è. L'allarme è nei numeri sempre più alti, le persone sempre più alti sbarcate. Le persone sbarcate in Italia dal 1 gennaio al 27 marzo quest'anno sono 21.939. L'anno scorso 14.505. Il 51% in più, nonostante le stesse condizioni climatiche invernali. E non è che la situazione dal punto di vista geopolitico sia peggiorata in un anno, era brutta prima dall'altra parte del Mediterraneo ed è brutta allo stesso modo adesso. Viene intervistato su Repubblica da Annalisa Cuzzocrea Enrico Letta, l'ex premier, che dice: la cosa che mi fa rizzare la pelle è lo scarto tra l'uso della parola taxi, è stata usata ieri da Di Maio per esempio, e la disperazione che io ho visto sui volti dei migranti. Ricordo il naufragio del 2013 a Lampedusa. Non c'erano abbastanza bare per i 366 corpi recuperati. Ricordo le facce dei sopravvissuti, i feretri bianchi dei bambini. Enrico Letta lanciò allora la missione Mare Nostrum, era il premier. Anche quella fu definita un fattore attrattivo e invece, da quando è stata chiusa, gli sbarchi sono triplicati e sono aumentati i morti in mare. Il titolo dell'intervista: per Mare Nostrum fui massacrato, ma fermammo le stragi. Poi ce l'ha con Di Maio Letta e dice: sono sconsiderate le sue parole, come se stessimo parlando di persone che chiamano il 3570, il taxi. È una terminologia riprovevole che mostra l'inadeguatezza di chi si dice pronto a governare, ma fa parte di una precisa strategia. I 5 Stelle hanno deciso di solleticare le paure e l'istinto anti-immigrazione degli italiani, distinguendosi da Salvini, ma ponendosi sullo stesso livello. È un gioco sporco. Così Enrico Letta. Tra l'altro, sul tema immigrazione c'è stata ieri una sentenza Imperia, di cui parlano sia il Secolo XIX ma anche il Manifesto a pagina 3. È stato assolto Felix Croft, è un passeur, così viene definito, di Nizza. Ricordate quando è stato chiuso temporaneamente il confine in Liguria tra l'Italia e la Francia? Ebbene, Felix Croft è stato fermato perché a bordo della sua macchina c'era una famiglia, un gruppo, non so se una famiglia, di sudanesi. Lui, 28 anni, fu fermato a Ventimiglia e dichiarò subito: guardate, l'ho fatto per bontà. Non ci sono... Sì, ho infranto la legge, lo sto facendo perché queste persone hanno bisogno di aiuto, li sto portando in Francia. È stato processato Imperia, è stato assolto. Felix è innocente, assolto il passeur umanitario. Così racconta Paolo Isaia sul Secolo XIX, così racconta Enrico Mugnai a pagina 3 del Manifesto. Il fatto non sussiste, assolto Felix Croft. La procura aveva chiesto per lui più di 3 anni di carcere, per il giudice invece lo ha fatto senza corrispettivo, senza essere pagato, lo ha fatto effettivamente per un gesto umanitario e quindi è stato assolto. Signori, io vorrei che il TAR del Lazio, per esempio, si pronunciasse per abolire la pioggia e i temporali per almeno un mesetto. Potrebbe essere una cosa utile. Perché il TAR del Lazio invece ogni tanto se ne esce con delle decisioni che certamente, insomma... Vabbè, ricordate, ha bloccato il TAP. Poi è stato sbloccato. Adesso ci sono 300 agenti per 11 ulivi a Melendugno, così racconta il Fatto Quotidiano. Ma in realtà il TAR del Lazio ieri si è distinto per un'altra azione, come racconta Fulvio Fiano a pagina 21. È stata data la sospensiva all'ordinanza che era stata fatta dal prefetto Tronca a Roma, che sospendeva i centurioni. Sapete, quelli che si travestono da centurioni, da vecchi centurioni, e poi chiedono i soldi se uno fa le fotografie, eccetera. Bene, il TAR del Lazio sospende il divieto del sindaco di Roma Raggi sui centurioni. Una pagina del Corriere della Sera: non si possono considerare un'emergenza. La sindaca dice basta abusivi, a Roma serve decoro. E anche il Corriere della Sera si chiede: è stata sospesa l'ordinanza accogliendo le richieste di 10 legionari riuniti nell'associazione Centurioni Artisti di Strada. E si chiede al Corriere cosa ci sia di eventualmente artistico nel loro vestirsi con spade di plastica, armatura in polistirene, calzamaglie d'inverno, verrà chiarito nella decisione di merito del 6 dicembre prossimo. Capito? Il 6 dicembre prossimo, tra 8 mesi. E sta di fatto che questo è il ritorno dei centurioni al Colosseo. Ale, ma siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata. L'articolo da Mani sul Volante, se siete alla guida, è Azzurra Noemi Barbuto, che racconta su Libero la vicenda di una sede della Regione Calabria in Lombardia, a Milano, per la precisione. La Calabria butta 500.000 euro per una sede vuota. Nel 2011 la Regione Calabria ha preso in affitto a Milano dei prestigiosi uffici di rappresentanza, costo 500.000 euro secondo Libero, risultato, sono rimasti sempre chiusi. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il più ganzo dell'informazione. Vabbè, dai, buona questa. Alle 7:34 minuti. Allora, ripartiamo dal caso all'Italia. Come racconta Giorgio Pogliotti a pagina 5 del Sole 24 Ore, ci sarà un ok rapido al prestito ponte. Si tratta di quei 400 milioni che servono a garantire almeno l'operatività dei voli per 6 mesi, la continuità aziendale durante la gestione commissariale, gestione che dovrebbe essere, secondo Repubblica, affidata a 2 commissari, non uno ma 2, vale a dire Gubitosi per l'area business e Laghi per l'area legale. Questa a partire dal 2 maggio, così racconta Repubblica con una certa sicurezza. I tempi, come racconta sempre il Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti, sono strettissimi. Ieri il board della compagnia ha avviato una serie di passaggi formali in vista dell'assemblea dei soci del 2 maggio che confermerà l'impossibilità di procedere alla ricapitalizzazione. Sarà seguito poi tutto martedì dalla riunione del CDA che formalizzerà al Ministero la richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria ai sensi della legge Marzano. Dunque la prossima settimana è atteso un provvedimento. Il veicolo potrebbe essere un decreto legge o un emendamento da far confluire nella manovrina all'esame della Camera. Saranno anche nominati i commissari e anche il Sole dice, appunto, Luigi Gubitosi e Enrico Laghi sono i due più gettonati. Tra l'altro ci sono ora le polemiche postume o i ripensamenti, se volete, sul referendum. Sentite cosa dice la leader della CISL, Anna Maria Furlan, intervistata da Filippo Santelli su Repubblica a pagina 4. È stato un errore il referendum. Ebbene sì, dice così, la democrazia sindacale è importante. Ma sottoporre l'accordo su Alitalia al referendum tra i dipendenti, snaturando il nostro ruolo, forse è stato un errore. E su questo bisognerà aprire una riflessione unitaria. Lo dice senza tentennamenti Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL. Abbiamo scaricato la responsabilità scatenando un populismo sindacale sui lavoratori. Ma ora vedo solo polemiche politiche, demagogia, e se la scelta degli azionisti sarà il commissariamento, procediamo velocemente con un piano industriale. Una assunzione di responsabilità mica male da parte della leader della CISL, che dice forse su queste cose. Mi sembrano un po' i discorsi, e infatti qualcuno ha detto si pentiranno come dopo il voto sulla Brexit, ovviamente altra questione. mi sembrano come i discorsi proprio non è il popolo che deve decidere sulla Brexit. Ecco, mutuando questo tipo di metafora, la leader CISL dice: non erano forse i lavoratori a dover decidere sul piano industriale, è stato un errore questo referendum. Comunque, alle iacta est, ormai bisognerebbe dire. In tutto questo, spostandoci sulla politica, ormai manca due giorni alle primarie domenica e Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera, pagina 8, racconta uno scenario di quella che sarà l'affluenza alle urne delle primarie, e si parla di un'affluenza con rischio di crollo rispetto alle primarie precedenti. C'è una perdita di più del 50%, nel 2013 furono 2.800.000 le persone che andarono a votare alle primarie. Ora si stima che ai gazebo si presenteranno tra 1.300.000 e 1.600.000 di persone, la metà. Primarie, l'affluenza crolla ai gazebo tra 1,3 e 1,6 milioni, a Renzi 3 voti su 4, quindi dovrebbero andare il 75% dei voti. Questo, secondo le proiezioni, lo scenario di Nando Pagnoncelli, lo trovate sul Corriere della Sera a pagina 8. Ad oggi, scrive Pagnoncelli, il 2,7% degli elettori dichiara che sicuramente parteciperà alle primarie. Il 3,7% probabilmente lo farà. Entrambi i dati sono in flessione rispetto al sondaggio pubblicato 3 settimane fa. La stima Ipsos di affluenza si colloca tra 1,34 e 1,58 milioni di elettori, in netto calo rispetto al sondaggio precedente che presentava una stima compresa tra 1,8 e 2 milioni di elettori. Quindi evidentemente negli ultimi giorni si sono non proprio appassionati a questa campagna delle primarie, almeno 500-600 mila persone che rispetto al precedente sondaggio probabilmente dicono non andremo a votare. Comunque stiamo a vedere, questo è uno scenario, vedremo domenica quali saranno i numeri. In tutto c'è il dibattito sulla legge elettorale, signori, e vabbè, la legge elettorale è così. Cresce il pressing tra l'altro per il voto anticipato, questo scrive il giornale, ma sono le solite schermaglie di politica. Gentiloni resiste, c'è il monito del Colle sulla legge elettorale, quindi la legge elettorale ha visto un'accelerazione, il testo base verrà presentato entro il 25 maggio, si registra, forse questa è la cosa politica in questo argomento di una noia letale, la nota politica più interessante. Ilario Lombardo racconta sulla Stampa, pagina 3, che da parte del Movimento 5 Stelle ci sarebbe un'apertura a trattare sulla riforma. Ecco la nuova offerta all'ex premier Renzi, apertura totale e massimo senso di responsabilità. Se lo ripetono fino allo sfinimento i 5 Stelle per non rimanere intrappolati nelle mosse tattiche dell'avversario. Vogliono che si sappia, il gioco di Renzi è chiaro, ci vuol far passare per quelli che si tengono i capilista bloccati, così può liberamente fare l'inciuccio con Berlusconi e dire che non c'erano alternative, ma noi non possiamo permetterglielo. È come stanno ragionando i deputati grillini della Commissione Affari Costituzionali, quella che deve partorire una proposta per modificare la legge elettorale. Tra l'altro più avanti, dopo le 8, il giornale radio, avremo ospite il presidente di questa Commissione Affari Costituzionali, colui che, eletto, qualcuno dice a suo insaputo, comunque non candidato del PD, doveva dimettersi, ma dice io non mi dimetto. E vedremo, Torrisi si chiama, vedremo che ci dirà. Niente, la riforma alla legge elettorale. C'è stato per la cronaca anche un aspetto giudiziario importante ieri. Repubblica lo mette in apertura interna, cioè pagine 2 e 3. È la inchiesta del cosiddetto mondo di mezzo, Roma, quella che fu definita all'inizio mafia capitale. Sono arrivate le richieste della procura, Poi bisognerà vedere come si pronuncerà la Corte, ma le richieste sono pesantissime. 515 anni da spalmare, 28 anni per Massimo Carminati, 26 anni e 3 mesi per l'imprenditore delle cooperative Salvatore Buzzi, 19 anni e 6 mesi chiesti per Luca Gramazio, ex consigliere regionale, 21 anni chiesti per Franco Panzironi, ex manager pubblico, 22 per l'ex manager pubblico Franco Testa, insomma, e poi altre ovviamente. Sono richieste altissime, ma come racconta Giovanni Bianconi a pagina 18 del Corriere della Sera, sono richieste che sono conclusioni, come dire, che suonano altissime e clamorose, paragonabili a quelle inflitte a boss sanguinari e rinomati. Tuttavia sono richieste formulate tenendo conto delle pene base fissate dalla legge per i promotori e gli organizzatori delle associazioni mafiose. Quindi anche se c'è stato il dibattito, non è mafia capitale, è mafia capitale, secondo la procura invece, vista la, il numero di anni richiesti, evidentemente si può parlare di una organizzazione mafiosa come quelle, insomma, che in Sicilia, in Calabria, in Puglia, nei processi vengono smantellate perché le richieste di anni sono assimilabili. Va bene, ma è venerdì e insieme agli auguri che faccio preventivamente per un weekend serenissimo, anche se non so neppure quando, dove, come e perché, a Mauro Meazza, lo troviamo qui sul Sole 24 Ore a capire che cosa c'è. Oh, buongiorno. Ringrazio degli auguri, serviranno, come non sai, per il confronto con il Napoli che si svolgerà qui allo stadio milanese, diciamo cinese milanese. Direi quindi un bel 1-2 allora, pronostico Inter-Napoli 1-2. Va bene, nel pomeriggio invece la squadra tua omonima sarà impegnata a Crotone. Crotone-Milan 0-2. Speriamo, come dire, speriamo, certo, al Crotone, speriamo. Ecco, in ogni caso io te lo auguro con tutto il cuore. Nell'attesa della fatal Crotone di domenica, ti ricordo da domani che non solo devi leggere il Sole 24 Ore perché ti fa bene, ma anche devi leggerlo perché domani c'è Plus, che come sai è dedicato sempre al risparmio e agli investimenti. E poi domani ci sarà anche la quinta e ultima puntata della guida alla manovrina, ottimo. Cosiddetta manovrina. Oggi invece sul Sole 24 Ore trovi la quarta puntata, quarta puntata che è dedicata al crowdfunding. Sai cos'è il crowdfunding? Raccogliere i fondi. Raccolta di fondi, esatto, ma questo crowdfunding è stato esteso dal decreto legge 50, che è il nome tecnico della manovrina, sì, anche alle PMI, alle piccole e medie imprese, anche piccolissime. Quindi interessante da staccare e conservare, come sempre, la guida alla manovrina oggi nelle pagine di Norme e Tributi, che vanno come sempre lette religiosamente. Oh, tra l'altro, scusa Mauro, visto che tu dici hai svelato la parola crowdfunding, giustamente prima ho detto alea iacta est e mi dicono, ma insomma, se puoi tradurre anche questo inglese, non è proprio inglese, ma insomma è più latino. Comunque il dado è tratto, signori. Bravo, bravo. Vuoi ricordare anche l'episodio storico al quale questa frase Giulio è legata? Cesare, credo. Oh, ma insomma, vabbè, adesso ma non esageriamo. Però. Ma che piacere, un venerdì il elevatissimo, Rubicone, devo dire. Il passaggio del Rubicone. Rubicone. Esatto. E certo, perché si legava un po' alla notizia sui centurioni, mi pare, esatto, di capire. Esatto, è per quello. Deve essere stato questo che ti ha condizionato. È proprio quello. Ti voglio segnalare poi, domani nella guida alla manovra spiegheremo bene questa tassa sugli affitti brevi, che è nota anche come tassa su Airbnb, sì, ma già oggi Saverio Fossati, proprio nelle pagine di Norme e Tributi, segnala alcune cosucce che andranno sistemate in questa tassa sugli affitti brevi, una tassa secca, la cedolare, quindi una tassa ridotta sugli affitti brevi, naturalmente pagando delle tasse quando uno fa l'affitto breve, cosa che è sempre auspicabile. Oggi sul Sole 24 Ore naturalmente moda 24 perché è venerdì e quindi parliamo tra l'altro di profumi, interessante, un'espansione di un grosso soggetto attivo nei profumi, ma ci sono anche notizie, diciamo così, un po' una da, direi da mani sulla cloche, te la segnalo, caro Alessandro, perché scrive oggi Simone Filippetti che forse dall'uscita di Alitalia Etihad potrebbe persino guadagnarci. Non so se è da mani sul volante o sulla cloche, dammi lettura, leggila poi e mi saprai dire. Tra l'altro stai preoccupato perché l'Unione Europea potrebbe pure multarci per violazione delle norme sull'inquinamento nelle grandi città. Ecco, rischiamo molto, pare fino a 1 miliardo di euro, comunque abbiamo 2 mesi di tempo per rimediare, vediamo, dovevamo rimediare già da 10 anni, forse chissà, uno scatto, un colpo di reni fino proprio negli ultimi 2 mesi potrebbe salvarci. Comunque ne riferiamo alle pagine di Imprese e Territori che tu leggerai come sempre, scrupolosamente. E in ultimo, ma non per questo meno importante, anzi è l'editoriale di oggi, ti consiglio la lettura appunto dell'editoriale da Meditazione di Paolo Bricco, perché ti spiega com'è che questo paradosso per cui le aspettative delle imprese sono positive, quelle delle famiglie, ohimè, molto meno. È spiegato nell'editoriale di Paolo Bricco, ma su questo punto io mi taccio e ti lascio la parola, anzi no, non la lascio a te. A te faccio gli auguri e la parola la lascio al traffico! Alessandro Milan, il Bonovox dell'informazione! No, aspetta, forse no. Solo il Vox dell'informazione. Sì, sì, dai, dai, solo il Vox, ah, dai, vabbè, dai. Gli appuntamenti fissi del venerdì. Signori, vabbè, d'altronde, ma poi tenetevi in mente questa, perché c'è chi voleva da piccolo essere Bono, come il sottoscritto, e c'è chi teneva i poster di Bob Marley, come il sottoscritto, e chi teneva altri poster, ma tra poco, non vi voglio svelare molto, perché sarà la conclusione della nostra rassegna stampa, rassegna stampa che dobbiamo continuare, ti ricordi Peter, quindi adesso sfumerai la canzone e noi continueremo con la rassegna stampa. Non era proprio quello che ti avevo chiesto, ma d'altronde evidentemente tu preferisci la musica alla rassegna stampa, vedi tu, però che dobbiamo fare? Bene, bene. Allora, caro Peter, torniamo in noi. Allora, c'è un dato che mi ha colpito sul giornale. Cristina Bassi e Luca Fazzo sono andate a spulciare sui fallimenti a Milano e hanno scoperto che crisi e concorrenza, metà dei crack a Milano, dei crack nel senso dei fallimenti, riguarda rivendite di medicinali, le farmacie. Fine di un altro lavoro sicuro. Ecco, non so se questa è una sentenza un po' apodittica. In ogni caso, home page del Tribunale Fallimentare di Milano, il solito malinconico elenco di aziende grandi o piccole andate a gamba all'aria, 16 nomi i più recenti e 7 di questi sono farmacie. Un dato senza precedenti. E nei mesi scorsi non è andata meglio. 25 farmacie nella città più ricca d'Italia, una dopo l'altra, hanno portato i libri in tribunale, chiedendo il concordato preventivo per evitare la bancarotta. Si sono arrese, insomma, al punto da chiedersi che diamine accada in quello che una volta era business senza rischi, rendita garantita e visibilità sociale. Le farmacie che chiudono, questo almeno a Milano, e racconta il giornale. La cronaca racconta una storia triste, perché una ragazza di 17 anni è morta, l'abbiamo sentita anche nel giornale radio e ci occuperemo anche di questo più avanti, e dopo il giornale radio, cioè coloro che imbracciano le cure cosiddette alternative, cure ovviamente tra virgolette. Rifiutò la chemio e morì. I genitori della ragazza indagati per omicidio colposo. La procura di Padova accusa la coppia di genitori di aver spinto la loro figlia 17enne Leonora verso terapie alternative. Il padre dice in realtà era maggiorenne e ha scelto lei, e la vicenda di Leonora Bottaro, 17 anni, che a gennaio 2016 scoprì di avere una leucemia, i genitori rifiutano le cure tradizionali somministrandole invece paracetamolo, insomma, la tachipirina, vitamina C, cortisone, e allora il tribunale il 22 febbraio si riunisce con il comitato etico dell'azienda ospedaliera che chiede l'intervento del Tribunale dei Minori per togliere la patria potestà e curare la ragazza, l'epilogo è che il 29 agosto la giovane muore a causa della leucemia. Lei stessa aveva ribadito, appena compiuti 18 anni, di non volere essere curata con la chemio e altre terapie indicate dai medici. Ma, secondo gli atti della procura di Padova, c'è stata una falsa rappresentazione della realtà e rimedi privi di qualsiasi validità scientifica che hanno portato alla morte e ora all'indagine per omicidio colposo nei confronti dei genitori di questa ragazza. In tutto questo, che ora chiudiamo? Tra due minuti, bene. Vi voglio raccontare questa vicenda. Vabbè, gli esteri raccontano di un attentato sventato a Londra, il terrorismo, nuovo attacco, è stato fermato una persona con una lunga barba, l'avete sentito e visto anche il video, un coltello, si temeva quasi certamente un remake dell'attentato di Khalid Massoud che il 22 marzo uccise 4 persone con un'auto prima di accoltellare a morte un agente a Londra. Questa volta è stato fortunatamente fermato per tempo. Sempre gli esteri raccontano di quello che sta succedendo in Francia, dove c'è un problemuccio per Jean-François Jalc, presidente del Front National, quello di Marine Le Pen, candidata al ballottaggio per l'Eliseo. È stata trovata una vecchia intervista smentita da Jalc, ma in questa vecchia intervista, rilasciata nel 2000, pare che lui abbia detto, lo sostiene una ricercatrice dicendo «ho la registrazione dell'intervista», che lui ha messo in dubbio l'autenticità delle camere a gas. E allora, eccolo qui, l'olocausto sui gas, ho dei dubbi, la bufera sul presidente del Front National, lo racconta il Giorno. Ma volevo raccontarvi questa storia, bellissima. Massimiliano Parente, scrittore, racconta sul giornale, di un atlante. È stato edito l'Atlante delle emozioni umane, Tiffany Watt Smith. Sapete quante emozioni umane sono state catalogate? 156. Ah, 156. Vabbè, l'emozione, la tristezza, la gioia, la felicità, quelle classiche, la noia. Ma c'è anche la pronoia. Tu, Lorenzo Nespoli, che mi stai riprendendo, sei affetto da pronoia, non sai neanche che cavolo voglia dire. La pronoia, quella sensazione che provate quando vi sembra che tutti vogliano farvi del bene. La pronoia, e Massimiliano Parente scrive, io la provo ogni giorno, da mia mamma, la mia fidanzata che si preoccupano se bevo, se fumo, come mangio male, ora posso dirgli che così mi uccidono di pronoia, mi uccidete di pronoia. Oppure c'è la basoressia, l'impulso improvviso a baciare qualcuno, e a chi non è successo? E Lorenzo Nespoli, quando passa una bella ragazza, è sempre affetto da basoressia. Basoressia. Va bene, l'Atlante delle emozioni umane, ne racconta il giornale. Ma siamo alla carta costa, eccoci qua, l'articolo più inutile scavato sui giornali. Allora, rispolveriamo la questione dei poster. Vi ricordate, io avevo Bob Marley come poster. Neanche Bono, volevo essere Bono, ma avevo il poster di Bob Marley. E Renzi ci ripensa, il suo poster, aveva detto alle primarie che era il poster di chi? Duran Duran, Baggio, eccetera. No, ieri invece, ieri, a un giornalista ha detto se spegni tutto ti dico in realtà il poster di chi avevo, di Samantha Fox. Hai capito? Samantha Fox, anch'io ce l'avevo, devo fare una confessione, anch'io ce l'avevo, il poster di Samantha Fox. Quante occhiate a quel poster di Samantha Fox in camera? Ma in fondo sì, la domanda è quella. Che poster aveva Renzi in camera? Ma chi se ne frega!